migliore, sicuramente questa è un po' avara, capito? Questa è un giocattolino e quindi non è affidabile. Quindi io mi ricordo con l'altra radio Gavino l'ho sentito, ci ho parlato tante volte ed era sempre sì, 8-9, il segnale era quello, però la radio è buona, perché in linea d'aria lui non è lontano da Sassari, capito? E magari, come ha detto lui, è un po' chiuso, c'ha la collina davanti, però già arriva bene, qua si difende bene da queste parti. Qua già sono anche io, anche Claudio Di Muro lo stesso qua mi arriva 9, 9.10, 9.20, un po' dipende da che radio usa, perché Claudio ogni tanto tira fuori qualche radio diversa, magari c'è quella che rende più col segnale di un'altra o esce con più watt, capito? Però la media è 9, 9.20, Muros da qua diciamo è in linea d'aria, non è lontano Robè, perché io dal tetto vedo Ossi, Tissi, tutta quella zona lì, e Muros è più spostato, non lo vedo, ma evidentemente è favorevole nella zona nostra. Muros mi ha detto che tu sei il più forte di tutti come segnale, poi c'è Claudio Spaviero e poi ci sono io da Sassari, quelli che arrivano più forti, i tre siamo noi, tu sei proprio quello più forte di tutto, ovviamente tu c'hai un canalone, vabbè tu sei molto in alto, io ho visto l'antenna tua è micidiale, c'è un'apertura da paura, in quel punto lì copri tutto benissimo, e figurati se metti una radio un po' più performante, diciamo tipo questa che stiamo utilizzando noi, guai, però devi stare attento al resto di lì poi, con tutto quello che c'è vicino. Ok, Gavi, riprendi tu. Forte di lì a Sassari, mi state dimenticando anche che c'è Antonello Alessio, che forse è più in alto di tutti, perché Antonello era anche, se vogliamo, se parliamo proprio a livello di terra, era anche più in alto di Claudio, ma Claudio era più in alto perché aveva il palazzo, era alto, però Antonello, diciamo Pomponio, lo stesso da lì copre tanto. Allora Antonello Pomponio, se avesse l'antenna che c'ho io, montata come ce l'ho io, quel palo che c'ho io di 9 metri di palo e tutto quanto, non ce ne sarebbe per nessuno, perché è una posizione strategica, non ha ostacoli, non c'ha niente, lui è più alto anche nella collinetta di scala di gioco, se si mette un'antenna è troppo attaccata al solaio, è a 2,5 metri, no? Cioè quell'antenna non irradia niente, cioè sta lavorando al 30% con l'antenna, se lui la sollevasse almeno di 4-5 metri, tu vedi come cambia la giornata alla notte con la postazione. Tu devi considerare, Roberto, che io l'antenna ce l'ho 6 metri dal tetto, 6 metri dal tetto e 10 metri da terra. Vabbè, lo sai, l'hai visto come, no, non c'è bisogno che te lo spiego ulteriormente. Io sono circondato da due pini che sono enormi. Se tu vieni qua a casa mi dici, lo sai cosa fare? Ho due pini. Avranno 100 anni. Ma lo immagino. E a proposito, domani se non avete niente da fare ci prendiamo il caffè, tanto sono libero, non ho niente da fare, oggi l'ho impegnato tutto il giorno. Carlo, tu sei libero, mi sa, e tu capisci cosa devi fare? Se organizzate ce lo possiamo anche prendere, non ho problemi. Metta manetti mattinata con calma, 10:30, così. Io non prendo caffè, naturalmente prenderò altre cose, però lo diciamo anche a Sparviero, se è disponibile. Per me va bene, io non ho problemi, domani mattina sono libero, domani sì, c'ho il turno di sera, poi finisco tardi, per cui c'ho tutta la mattina libera. Sì, se non lo so, Robè, per le 10:30 dovrebbe andare bene. Ci siamo a un punto strategico dove conviene anche a Gavino senza fargli fare troppa strada. Per te va bene 10:30, Gavino? Sì, certo, sì che mi va bene. Per me non è un problema. Ditemi dove volete andare e andiamo. No, però fatti salire a Sassari, vai, cosa c'è di lì in zona? No, per me salire a Sassari non è un problema. Se volete ci vuole qualche fornire di dare. Organizzate, mi fate sapere. Dove volete voi, dove vi trovate bene voi. ci vediamo. Guarda, se te, per te va bene, tanto anche il caso non è molto lontano, ci troviamo da me, così ti faccio vedere anche con l'antenna e poi ci mettiamo d'accordo per qualcosa, dai. E hai capito dove c'è l'officina io, tu, Gavi? No, non lo so io, Robe. Vabbè, tu fai conto, Vigili Urbani è quella zona lì, siamo un po' più su dei Vigili Urbani, poi ci hanno tanto dentro l'officina con l'antenna. In su dei Vigili Urbani, vabbè comunque. Dove c'è lo pneumatico, il gommista? Positivo. Lili, se ti va bene la posizione ci diamo appuntamento verso le 10:30, da me il primo che arriva aspetta, dai, tanto io già sono vicino, metto dietro. Sì, va bene. Fatto, aggiudicato. Poi vai, se andiamo a Piazza delle Segne ci prendiamo il caffè a Piazza delle Segne o ci diamo appuntamento direttamente a Piazza delle Segne. No, dove volete, decidete voi, per me va bene, a me va bene tutto, non ho problemi. Allora facciamo una cosa, diamoci appuntamento a Piazza delle Segne e dopo scendendo ti faccio vedere l'antenna, tanto siamo vicini, ci troviamo al quadrato, il primo che arriva aspetta alle 10:30 verso Capitan Uncino, dai, e così ce l'abbiamo parcheggiato, siamo di lì vicino. Perfetto, positivo, perfetto. Va bene anche per me, non ci sono problemi, dai, alle 10:30 ci vediamo lì vicino a Capitan Uncino, lì non c'è problema di parcheggio, anche se lunedì domani c'è il mercatino. No, domani è domenica. Ah, scusami, domani è domenica, vero? Ci stavo guardando io lunedì, infatti, no, già è perfetto, domani va benissimo allora là. Prima sbagliare il giorno per tua moglie andare a prenderla, vero? No, è domani. È che chissà perché stavo pensando già che fossimo a domenica oggi, invece siamo di sabato. Per me, siccome sono solo un paio di giorni, quindi sono in pieno relax, non stavo guardando, cavolo, già sta rientrando mia moglie. Ciappa, vai, capi. Sei positivo, non vai a prendere la settimana prossima, no? Magari. Già va bene, dai, già vanno bene un paio di giorni di relax, però poi quando mancano dopo 2 o 3 giorni, già iniziano a mancare, già si sente, dai. Sì, anche perché abbiamo un altro componente della famiglia che è un pochettino lontano, e mia figlia che ce l'abbiamo in Australia per un anno e rientra a fine maggio, primi di giugno. Lo vedi. I ragazzi così bisogna premiarli, perché quando hanno voglia di prendere, di intraprendere una strada di vita, cioè di intraprendere la loro carriera, e vanno fuori a studiare, a fare, sono da ammirare. E io prassi sempre della mia famiglia, si viaggia molto, mia moglie lo stesso da ragazza aveva fatto un anno all'estero, mio figlio è stato un anno negli Stati Uniti, è stato 8 mesi nel Missouri e 4 mesi nel Maine, dove faceva un freddo gelido, si arrivava anche a meno 30 gradi. Poi niente, mio figlio era a Milano, si è specializzato e adesso è rientrato a Sassari, in attesa di sistemazione, capito? Come tutti i giovani. Adesso è tornato a casa e dice aspetto che rientra la sorella, insomma, e poi penso che prenda il volo di nuovo lui. Lasciali andare, intanto vedi qua come siamo, Robert. Vedi qua come siamo qua, bisogna prendere, scusate se sentono dei rumori di sottofondo, però c'ho le signore che stanno guardando un film con surround e sembriamo al cinema. Qua non c'è più speranza di niente, ma non qua in Sardegna o qua a Sassari, in Italia. Oggi giusto stavo ascoltando il telegiornale, diciamo ci sono le catene alberghiere che non riescono a trovare personale e addirittura siamo e sono peggio degli anni scorsi. Ma la gente dice ma c'è il reddito di cittadinanza, perfetto, tutto quello che vuoi, è vero. Però loro secondo me lo sanno, però non lo vogliono ammettere, che i ragazzi stanno andando via dall'Italia e fanno bene. E in effetti è così. In Italia non c'è futuro per i giovani. In Francia stanno mettendo a ferro e a fuoco Parigi le proteste contro l'aumento dell'età, diciamo, per andare in pensione. Da 62 vogliono passare a 64. Da noi siamo passati con la Fornero a 67, anche ad aumentare a 68. Questa legge ce l'hanno passata di notte, in sordina, e non abbiamo fatto neanche una piega. Invece in Francia a momenti faranno cadere il governo proprio per quello. Oggi Landini, c'è stata la sua riconferma al sindacato della CGIL, ha detto una cosa giusta, che in Italia devono finire i lavori a tempo, il precariato è ora che finisca. Però questo precariato tempo fa erano stati proprio loro a volerlo, capito? La cosa strana è quella, che prima l'hanno voluto e adesso lo stanno rinnegando. Zero nascite in Italia, zero nascite. Ormai gli italiani non fanno più figli perché non ci sono più certezze, e questa è una vergogna nazionale. Comunque, riprendi, Robè. Già lo so, ma poi per dire, l'attività che faccio io, Carlo, già lo sai, e noi molte volte ci sarebbe necessità di darci qualcuno una mano, non possiamo assumere perché non conviene, perché devi pagare una barca di soldi tra contributi e cose. Prima c'erano i voucher, dice mi serve uno, dai, un paio di giorni per darmi una mano, non lo puoi assumere, ne hanno tolto il voucher, adesso si stanno lamentando che era uno sfruttamento. Ma sfruttamento di cosa? Tu li saranno quello che rispettava la legge e basta, dice aumenta il lavoro nero, anzi esattamente il contrario, il lavoro nero aumenta perché non permette di utilizzare questo sistema di contribuzione, di pagamento. Ho capito, però devono cambiare tante cose nel mondo del lavoro, perché non è possibile, se tu non mandi la gente in pensione non c'è più un ricircolo, capito? La persona, se ci arrivi pure a guadagnare, se non muori prima, perché adesso stai morendo anche prima, non riesci neanche a arrivare, perché è una vergogna. Ok, Gabri, riprendi tu, dai. Cambiamo argomenti, perché questi argomenti mi irritano un pochettino. Abbiamo parlato di aerei, abbiamo parlato di impianti esterni di macchine, poi siamo arrivati adesso come al solito, ma ormai non stiamo parlando di Covid, perché prima l'argomento periodico era sempre il Covid, ogni giorno accendevi il telegiornale, guardavi il giornale, c'era più, meno male non se ne parla più, e abbiamo finito. Cosa volevo dire? Così domani ti faccio vedere con l'antenna, Gavi, e vediamo un pochettino. Cosa volevo dire? Altro non ce ne vai, Gavi. Sì, vabbè, no, volevo un attimino rimanere sul discorso del lavoro. È vero, ti serve una persona per un paio di giorni e non la puoi far lavorare perché ti viene troppo di assicurazione, ci sta, e noi siamo dalla stessa parte. Però c'è anche da dire una cosa, Roberto, prima l'educazione dei genitori non prendeva, era anche un po', diciamo, era sbagliata, però fino a un certo punto, perché prima un genitore al figlio maschio, diciamo, è maschio e femmine, gli diceva, ma tu che intenzioni hai, che lavoro vuoi fare, questo, perfetto, allora vai e impari un mestiere. Prima c'erano le officine piene di ragazzini, le officine, i muratori, i pescatori, diciamo ogni la carpenteria, la metalmeccanica, era piena di ragazzi che andavano a imparare un mestiere. E cosa facevano? Sì, ma li fai lavorare in nero. Aspetta un attimino, sì, li faccio lavorare in nero. Quando li faccio lavorare in nero? 2 o 3 mesi. Però quel ragazzo lì, in 2 o 3 mesi, se gli piace, se vuole lavorare, no, io dopo lo assumo e quel ragazzo mi rende. Quel ragazzo rende perché impara un mestiere e diventa un operaio finito. Adesso quando tu vai a cercare una persona a lavorare, no? Ti dice, sì va bene, vengo, quanto mi dai? Non è così, e gli dici, a me lo dicono, vabbè, quanto mi dai? Cosa sai fare? Io ti do questo tanto, tu quanto, io ti do questo tanto, se entri come, se vieni come, diciamo, come scarichino, una persona che vuole imparare, se tu vieni con me e mi chiedi che vuoi 180, 200 ore a giornata e ti proponi come tecnico, tu devi fare il tecnico, eh? tu devi fare il tecnico, perché altrimenti se non fai il tecnico, se non sei tecnico, ti prendo anche a calci in culo, cioè, perché vabbè, è arrivata l'ora di finirla con queste furie. Sì, ma io non trovo lavoro perché non ce n'è. No, tu non trovi lavoro, tu non trovi, perché, uno, perché non ne voglia, due, perché da ragazzo te ne stavi in giro, e tre, è perché non hai mai voluto seguire, non hai mai fatto un non hai capito cosa vuoi fare dalla vita. Quindi non conviene assumere fino a un certo punto, perché se tu vedi una persona, la prendi per un paio di giorni, no? E dici, caspita, questo ragazzo vale, questo ragazzo lavora, vedi che è una persona che si applica, uno dice, io voglio investire su di te perché sono una persona che vale, vuoi lavorare per la mia azienda? Sì, no. E così si fanno gli operai, così si forma un operaio finito, è una potenziale, è una persona potenziale che ha potenza nella tua azienda. Ciao, ormai i lavori manuali stanno tutti scomparendo, ormai vuole un lavoro seduto al computer, fare quello lì, comodo e basta. Se tu dici vuoi un falegname, un idraulico, un fabbro, non esiste più, apprenditi nessuno ne vuol fare, ma proprio vogliono lavori puliti che non si sporcano le mani, è una vergogna. Carlo, riprendi tu. Sì, esatto, l'esempio eclatante, anch'io per riparare una radio non trovi più un laboratorio, prima c'erano i laboratori dove portavi la televisione, va bene che allora c'era il tubo cattolico, però diciamo i laboratori così, i radioriparatori sapevano fare tutto, capito? Non solo radio, chi era radiotecnico, insomma, si aggiustava anche con gli impianti elettrici, per cui avevi tu il laboratorio e quando non avevi la TV o la radio da aggiustare, magari ti aggiustavi un lampadario oppure facevi un impianto in una casa, capito? Tutti questi lavori sono scomparsi, a Sassari non c'è più un laboratorio, ormai funziona che sì, è vero, i televisori sono tutti a schede, cambi la scheda, l'assistenza tecnica c'è la Ennas, c'è la Sony, c'è la Samsung, c'è roba di 7-8 marche, ha tutto lui, e poi c'è l'ADU, capito? Però l'ADU fa elettrodomestici, alla fine il monopolio ce l'hanno preso loro e poi i piccoli laboratori non esistono quasi più. Ma non avevo voglia di imparare, allora io la prima cosa che ho detto, devono rimettere il servizio militare, così si abituano all'ordine, all'educazione, al rispetto delle regole, senza armi, servizi sociali, tu gli insegni che la mattina ti devi pulire del letto, ti devi sistemare quello, devi fare quello, poi li mandi nei parchi per controllare che come sorveglianza, nelle scuole, eccetera, eccetera, anziché mettere le forze dell'ordine, che stai togliendo, quelle li utilizzi per questioni più importanti. E me lo ricaccio, l'hanno tolto, io ho tanti nipoti, amici, figli di amici, sono rampati in terra, li vedi tutto il giorno, questi ragazzi buttati, finiscono le scuole, il 90% di questi non hanno un mestiere, non hanno intenzione di cosa fare. Sì, esatto, servizio civile, però com'era la leva? Lontano da casa, in una sorta di, non dico una caserma militare, però così, dati servizi del genere, proprio perché così i giovani imparano a rispettare le regole, che c'è un orario, che si rispetta, insomma, quelli che sono tutti i canoni della vita civile, perché ormai i giovani sono un po' allo sbando e senza regole, anche mia moglie fa l'insegnante a scuola ed è alle superiori e me ne racconta, guarda, ne succedono di tutti i colori, proprio perché non i giovani non sono più come prima rispettosi delle regole, e purtroppo è così ed è triste. Posso benissimo una cosa, no, la futura adesso li mantieni tu, che sei, ma i figli di loro come faranno a vivere se loro i genitori non avranno un corso, se loro come padre non avranno un lavoro o qualcosa di stabile, diciamo, c'è da preoccuparsi. Gavi, riprendi tu. Io dico sempre una cosa, bisogna rieducare i genitori perché sono i primi genitori a essere maleducati, perché prima prendi, se facevi maleducato a scuola, prendevi schiaffi a faccia, prendevi schiaffi, io non mi sono mai azzardato a rispondere, ma era una professoressa, perché se mi chiamava mio padre o mia madre a scuola, io a casa dovevo tornare tornare fra dopo una settimana, perché buscavo forte. È così, no, bisogna rieducare i genitori. E poi per quanto riguarda il servizio di leva, sì, Carlo, ci vuole la caserma. Io ho fatto il militare, ho fatto in marina, ho fatto il carro e poi sono stato imbarcato a bordo della fregata Scirocco. Cacciavi la lacrima e andavi. E io me ne accorgevo, mio padre mi diceva, io non ci voglio andare, tu devi andare, a chi bisogna andare, devi andare e basta. Lui ci rimanevano male anche, però bisognava farlo. Grazie a Dio sono qua, vivo al vegeto e non ne ho perso i gradi. Io ti posso dire che non l'ho fatto il militare perché su tre figli io ero il terzo, noi eravamo cinque di figli veramente, due donne e tre uomini, e i miei fratelli che erano più grandi di me l'hanno fatto tutti e due, il terzo aveva l'esonero, quindi ho fatto la visita militare, e mi hanno fatto abile, mi hanno chiesto lo vuoi fare oppure vuoi essere esonerato, sì voglio essere esonerato. Il militare non l'ho fatto, però diciamo l'educazione l'ho avuta lo stesso e io sono abituato da piccolo a lavorare, a rispettare le regole e a fare tanti sacrifici, capito? Il problema è quello, invece molti genitori di adesso, giovani, non sono più fatti con la stessa pasta nostra, noi abbiamo conosciuto il sacrificio, il lavoro e le regole, adesso niente sacrifici, niente regole e lavoro poco, un po' perché non ce n'è e un po' perché molti lavori li snobbano i giovani. L'idea dei ragazzi di adesso è avere il cellulare ultima generazione, una macchina possibilmente anche di un certo pregio e fare una bella vita seduta al bar facendosi vedere, e poi non c'hanno i 50 lire per andare a comprarsi le caramelle, però loro, la vita loro è questa qui, quasi tutti, ci sono pochi casi rari che qualcuno va a studiare all'università, si impegna, si mette a fare i lavori d'estate per pagarsi, per dire, le piccole cose e basta. Il 90% dei giovani appena diplomato e il 90% sono gusti lampadi in carriera. Sì, è così. Pensa che mio figlio mi ha telefonato dal telefono di mia moglie e mi ha detto il mio telefono non mi dice inserisci scheda SIM, e invece ce l'ha inserita e ha un telefono vecchio di quando si è diplomato. Lui adesso ha 25 anni e ha sempre quel telefono che gliel'avevo comprato quando si è diplomato, praticamente aveva 18 anni, capito? È un telefono che era uscito anche 2-3 anni prima dell'anno del suo diploma e quindi avrà 10 anni di vita, non prende più gli aggiornamenti e gli sta creando problemi. Gli ho detto compratelo nuovo, perché lui già c'ha anche soldi, perché qualche lavoretto già lo sta facendo, capito? Ed è di quei ragazzi che proprio non, gli ho detto guarda te lo compra babbo se vuoi, no ma non spendere soldi, tu già me lo compro io, però quando gli ho detto guarda te ne devi comprare uno di media fascia e devi spenderci insomma intorno ai 250-300 euro se vuoi un telefono buono che ti duri un po' di anni, insomma, no io non sono scemo, non ne spendo soldi così, con 100 euro non c'esci, ho detto con 100 euro non ti danno neanche, ho detto ti danno i vecchi Nokia, quelli a tastiera, ho detto come quello di nonna, niente, perché non è un ragazzo spendaccione, non va al bar, non esce, lui adesso è solo a pensare a lavorare, capito, e qualche lavoretto lo sta facendo ogni tanto e qualche soldino se lo guadagna, però ha capito che qua non ce n'è a venire, quindi dice me ne vado all'estero, si è preparato tutti i curriculum, ha mandato già qualcosa, gli hanno proposto già un lavoro, però se ne deve tornare negli Stati Uniti, oppure se ne va in Francia, a Bordeaux gli hanno offerto un altro lavoro per la sua specializzazione, adesso vediamo, deciderà diciamo entro fine estate. Un ragazzo con la testa attaccata al collo, come si suol dire, è sempre una bella cosa, dai. Ok, riprendi tu Gabriele. Carlo, sì. Ragazzi, così diciamo che non è, non c'è, diciamo che li puoi contare sulla dita di una mano, ma io la verità me lo, io secondo tutti i soldi che ho speso in macchine, in autoparlanti, robe, in macchine, autoparlanti e divertimenti, avrei avuto, non lo so, ma secondo me avrei avuto un bel villone, invece di avere la casa così, la casa normale, avrei avuto una bella villa, già da ragazzo. Non è che ho spendacciato soldi, perché anche lì mi prendevano, mettevano il freno, però la verità, io soldi, diciamo, ma neanche di divertimenti, cose, li ho spesi in macchine, in diciamo in autoradio, in autoparlanti, queste cose qua, perché tu lo stesso io bar, no, non è che andavo, io me l'ho speso in questo modo qua, uscivo una volta ogni due mesi, però quando uscivo uscivo bene. Sono cose belle da ricordare, sono cose belle da ricordare. Tuo figlio invece sta prendendo la direzione giusta, perché un domani dirà: ho fatto dei sacrifici, però guarda cosa ho. Purtroppo ragazzi così con la testa attaccata al collo ce ne sono veramente pochi, cari. Diciamo che bisogna essere anche fortunati, dai, e da quel punto di vista penso di esserlo, perché anche mia figlia già è brava e già mi sta dando anche delle belle soddisfazioni a scuola, insomma è sempre andata bene, adesso è in Australia che sta finendo l'anno di studi all'estero, rientrerà anche lei, poi si fa l'anno del diploma e già ha le idee chiare, ha detto che vuole fare l'università, perché tanto dice col diploma poca roba ci fai, però tanto si è imparata bene la lingua inglese e penso che anche lei già riuscirà, insomma, a inserirsi nel mondo del lavoro. E mio figlio lo stesso, mio figlio non ha fatto l'università ma ha fatto un'altra scuola di formazione a Milano, lui è specializzato in disegno, capito, grafico e sa fare fumetti, e insomma è molto bravo nel settore della pubblicità, oppure si disegna anche, che ne so, una caffettiera, ha fatto la specializzazione anche per quanto riguarda il design delle diciamo arredamento, cose del genere, ma lui è anche un ottimo fumettista, capito? Ritrattista, si fa tante belle cose. E in quel settore fuori c'è tanta roba, qua però in Sardegna non c'è niente, soprattutto all'estero sono molti richiesti. Infatti lì io sono sicuro che già si troverà lui un buon lavoro anche fuori. Purtroppo la distanza, diciamo, ma i mezzi che ci sono adesso non c'erano, quindi anche andare a trovare un figlio, fa in fretta, un paio d'anni e sei arrivato. Pensando e parla sotto veloce. Che cosa? Dimmi. Hai detto qualcosa, Gabriele? No. C'è stato un becco. Ah, non hai detto, infatti, la voce. Avanti, che vuole entrare? No, non c'è stato un becco. Entro così, senza breccare io. Buongiorno. Anche buonasera. Ciao Tino, buonasera. Infatti, non mi sembrava la voce di Gavino. Infatti, ho detto, ciao Tino, ci siamo io, Gavino e Carlo. Ti rilancio prima Carlo e poi Gavino. Ciao, buonasera Tino, ben sentito. Vai Gavino. Tino, buonasera, riprendi? Sì, buonasera, qualche problemino con questa radio, aspetta che la cambio. No, va benissimo, che problema? No, a recessione mi saranno problemi che sono importanti. È strano, è solo oggi che ho notato questo problema, non so perché. Mentre voi parlate va in frontale anche lì. Questo è il capo, Vabbè, sto facendo a colpi. Esatto, sto facendo a colpi, vero? Aspetta un attimo. No, adesso prova, no, adesso penso di no. Provate a parlare. Roberto, stai uscendo a colpi. Io sto uscendo a colpi, pensavo stessi dicendo a Tino. Ah, allora no, non è problema mio, infatti volevo questi smalti di cosa, ho detto, no, forse è il mio problema, non lo so, vabbè, riprendete un attimino, dai. Anche adesso sto uscendo a colpi, Gavi. Ti sta mancando la modulazione, Robè. Sta uscendo la sbalza. No, eppure, ora? Sembra tutto a posto qua, strano. Adesso stai andando bene. Sì, anche a me, adesso. Ma poc'anzi, sta andando a colpi. Pensavo che ero io il problema. Ma colpi come segnale o come modulazione parlate? Entrambi. Fammi vedere la alimentazione. Guarda. Sembra tutto a posto, l'assorbimento c'è. Beh, sembra tutto ok, speriamo non sia succedendo niente alla radio. Eccolo di nuovo. Aspetta che provo a cambiare il microfono per curiosità. Vero Carlo, sembra roba di picchi di modulazione. Guarda, Roberto è molto molto vicino, quindi io lo sento bene, non mi sembra sempre uguale. Forse per la vicinanza e quindi non mi sono accorto. Invece volevo chiedere, Gavi, che roba a fare poco fa hai fischiato? Perché mi è salito il segnale a 9 quando hai fatto quel fischio. Ho cambiato il microfono, guardate un po'. Mi sentite? Sì, vabbè, io già ti sento. Guardate un po', come sto dicendo, adesso sempre un altro MC60. Per me vai sempre bene. Ma non è che sono troppo alto di microfono magari e sto saturando per quello. Questo è qualcuno che non sta uscendo. Che Tino, tu sei? Sì, stavo accordando. Come sta uscendo adesso? No, ma credo che sia io comunque. Stava andando importante l'altra radio. Ho cambiato radio infatti. E sicuramente quando parlavi tu andava a trasmettere. Adesso ho cambiato radio, ma credo che questa sia più in ordine, dai. Non c'erano più quei problemi a strappi? No, vabbè, ero io, fidati. Che ero io, anzi, adesso stacco il microfono, sicuramente qualche cavetto che messo male. E quindi andava a trasmettere anche quando stavi parlando, capito? Gavi? No, adesso è tutto positivo. No, infatti... sembra a te che ti rimaneva sempre una porta anche aperta, mi segui? Sì, ma me ne accorgevo perché andava, anche quando parlava Roberto, stava andando in trasmissione mentre ero in ricezione, vabbè, come la faremo a controllare? Secondo me queste radio di Tino escono di giorno e si ubriacano. Ciao Fra, sì, già può essere, vabbè, anche loro hanno bisogno di spazio. Ehi capo, buonasera a tutti, Franco da Sorso. Avanti, non è che ho capito tanto chi c'è, ho capito Roberto, poi vabbè, avanti. Ciao Franco, c'è anche Carlo. Ciao Franco, buonasera, ben sentito. Capo, ciao Carlo, ciao Roberto e ciao anche a Gavino. Ben ascoltati tutti quanti. Avanti Gavino. Buonasera Franco, e tu li tira sotto casa? Guarda, mi sono fatto un cancello vicino al tuo. Beh, positivo. Capita, bobo. Questo è una fucilata, non è un cristiano, a me mi arriva una fucilata qua. Vai Robè, riprendi. Sì, vabbè. Oggi abbiamo tutti più o meno le stesse radio. All'altra me, la grande, il TS2000 mi ha lasciato a piedi le HF, è diventato muto, non muto, sordo, tira un pochettino il segnale in ricezione. In trasmissione funziona tutto, V e U vanno perfettamente in ricezione e trasmissione, mentre le HF in ricezione non funzionano, si sono ammassati di gran lunga i segnali, pensavo fosse qualche problema all'antenna, all'accordatore, niente. E adesso volevo spedire a Braga, Graziano Braga, che è specialista sui Kenwood, e vediamo un pochettino, perché questo cavolo di radio ci ho degli amplificatori hi-fi che ce li ho 50 anni, mi hai dato problemi, anche se li tieni spenti. Queste radio HF sono troppo delicate, prima o poi ti lasciano a piedi. Vai Tino. Vabbè, cosa vuoi fare? Anche loro hanno lavorato. No, il mio problema è il cavetto, così. C'è il cavetto che sicuramente fa massa, insomma, è importante quando ne ha voglia, quindi per quello che ho cambiato il radio, non è la mia specialità di modulazione, però vabbè, andiamo avanti. Tu stavi provando il 60, di giusto? No, credimi, avevo 60 collegato con le 450, però forse perché è adattato, non lo so, come l'ho mosso in questi giorni, perché era sempre fermo, invece che la piega insomma, ha fatto dei capricci, vuole nuovamente guardato, vabbè. Faremo anche quello quando ne abbiamo voglia, sennò già cambiamo il microfono. Positivo. Sarebbe stato cosa provarlo con là adesso, così Roberto ti dava qualche comparazione, mi segui? Sì, vabbè, avremo modo, Robè, di fartelo sentire anche a te, è che mi dovrò fare il cavetto, in questi giorni adesso è un po' impegnato, sinceramente, devo provare il 60 con questa radio qua, e poi magari mi dai conferma se va bene o meno, ma abbiamo già fatto delle prove, pare che vada bene, dai. Ma questa è un po' chiusa come modulazione, è comprensibilissima, però leggermente chiusa. Quella che avevi prima era bellissima, la tua solita. Lo so, vabbè, calcola che questo è un palmare, e poi un'altra radio. Sì, no, immaginavo, infatti. Ok, Franco, riprenditela. Scusa, stavo guardando un altro radio. Stavo guardando i segnali e vabbè, sono buoni e niente, con quel pezzo di filo di ferro tutti buoni, quello era una cosa da provare, quello era una cosa da provare. Robo ha fatto provare una loco magnetica a Franco e si è spaventato. Ma di che? Autocostruita o acquistata? No, la mia, acquistata. E dice che gli arrivavano sotto casa, parlando il 40. Ma su che, perché banda? HF. Sono micidiali quelle antenne, non tengono potenza, però a livello di prestazione sono a paura. Fra, digli la tua esperienza. Guarda. Abbiamo lavato la turbo, non riceve quei segnali, non li riceve, perché lavato va i segnali che mi dà la Mantova 9, quella là me la dà 9.10, 9.20, anche 9.30. Ma è accordabile, no? C'è il condensatore variabile, Gavi? Sì. Ma come lo regoli? Remotizzato, ce la c'hai o te la metti vicino? No, la metti, diciamo, è quasi automatica, è la direzionata. L'alimentazione a una 12 e se lo regola, poi è bella. Mi è stato detto prova questa, siccome devo fare una long live, no? Tipo quella che ho io o col balloon, ho detto tutto, provate anche questa. È rimasto stupito. No, sono micidiali. Poi chi ha poco spazio, non so quanti radioamatori li stanno utilizzando quelle antenne, quando hanno problemi di spazio dentro città, hanno una ricezione spettacolare. Ma non so quanti volte ci sono dentro quell'antenna, lo sapete? Scusa, eccomi qua. Ho trovato l'inghippo, Risolto. Sì, non era il cavetto. È che momentaneamente pure la radio ho schiacciato il VOX, praticamente quando parlavo, oppure quando ascoltavo, soprattutto entrava il VOX in funzione. io ti ascolto bene, assolutamente. Sì, va bene Tino, va bene, va bene. E anche io adesso, toccando qua, ho visto che c'era inserito ANL, NB e Lightcat. Adesso ho disinserito tutto e Gavino lo sento molto molto meglio. Sì, è visto, piano piano, come si dice, cammino cammino già contro il barrio. E si va, e si va. Riprendi Tino. Mi stava preoccupando, ma più che altro pensavo del cavetto, perché essendo piegato tanti anni, credevo che avevo fatto, cioè diventa croccante qualche volta la cosa quando è sempre nella stessa posizione. E invece no, pulendo, ma sono accorto, ho toccato il tastino. E vabbè, è una cosa che è risolvibile. Sì, sì, è importante capire, è importante capire dove, anche a volte io insomma, ho preso un pennellino di quella setta alla fine, in modo che non, la forza non schiacci i tasti, non schiacci niente, perché secondo che cosa, per esempio qua nell'ICOM c'ho il tasto di trasmissione, no? Se capita che io sbaglio, no? Ma anche involontariamente, cioè sbaglio, accendo la radio, sono in antenna 2, e c'è stato inserito brucio finali, quindi bisogna, ho preso questo pennellino tranquillo, proprio sottile le cubisco con quello lì. Avanti Franco. Capo, bisogna stare attenti almeno con le cose, perché io ho bruciato un 680 così, che l'ho inserito e era sempre importante, me ne sono andato, era sempre importante, sono tornato e è uscito il fumo. Croccante era. Ma che, per carità, lo croccante da buio è diventato un bruciafuglio. Positivo, positivo, vabbè, quello senza mai dubbio. Riprendi Carlo. Sì, è proprio vero, a volte no, questa radiolina diciamo ce l'avevo fissa in macchina, avevo le regolazioni della macchina che mi andavano bene, quindi l'ho portata su e avevo inserite cose che invece qua con l'antenna grande non vanno bene. Adesso mi ha aumentato sia il segnale, Gavino, che anche la radio è molto più chiara, capito, la sento. Anche Tino va benissimo. Franco invece un pochettino più basso lo sento di radio, forse perché magari da Sorso c'è anche più distanza. Probabile quello, purtroppo sono un po' distante, è un po' negativo anche in qualche zona di Sassari. Franco, quindi Carlè, Roberto ti spacca lo smitter. Ehi Roberto, qua è fondo scala, sempre. Tu arriva a 9,50 Carlo, poi quando attacca qualcosina di più anziché 4, ne ha 10, devo attenuarlo perché sennò mi satura il baracchino. Dimmi un po' Franco, che differenza di segnali abbiamo? Vabbè, c'è anche differenza di potenza tra me e Carlo, a Sorso. Ma guarda, c'ho il Galaxy, sto usando, e c'è lo Smith che è un po' sballato, non è che ti posso dare tanto questo segnale. No, quello differenza tra me e lui. Lui arriva più forte, lui dovrebbe avere una posizione migliore della mia verso Sorso. No, tu arrivi più forte di lui, più forte anche di radio. E penso, adesso vedo un po' anche di segnale. Vieni avanti Carlo. Sì, guarda Fra, io sto uscendo con solo 4 watt, la radio mia è questa, un po' precaria, però già mi faccio sentire lo stesso. Sì, Carlo è molto più basso di te, Roberto, è molto più basso di te. Tu arrivi 8 a questa radio, però non devi considerare il segnale, perché è sballato lo smitter. E Carlo arriva a 5. No, no, solo per capire, naturalmente io sto usando una cosa più sofisticata, però lui c'ha una buonissima posizione, sicuramente molto più favorevole, dovevo fare solo un confronto considerando le posizioni e basta. Tornando al discorso dei microfoni, Tino, la cosa che mi meraviglia con tutta la tecnologia che c'è in giro adesso, che fanno Bluetooth da tutte le parti, non ho ancora visto una radio di un certo livello, anche spendendo diversi decine di migliaia di euro col Bluetooth, per dire, microfono escluso dai cavi, utilizzare un microfono Bluetooth come lo puoi utilizzare in macchina con il col coso, quando si mette il vivavoce e cose del genere. Non ha avuto nessuno l'idea di mettere un Bluetooth in una radio HF, così eliminavamo tutti i problemi delle connessioni. Vabbè, a me non mi interessa. Io sto provando con voi un amplificatore. Vediamo se va. Scusate un secondo. Se sale a tappe. Penso che abbia il picco massimo così, ma non so, l'ho appena acceso, Che è più lontano, Davino? 9,50, da me. 9,50. Vediamo se possiamo fare qualcosa in più. Guarda un attimino, Davino, ha aumentato? No, Tino, no, non ha aumentato, il segnale è sempre uguale, però diciamo che quando aumenti ti porti dietro dall'alternata, che è normale, dall'alternata diciamo di sottofondo, non tolta dalla radio, diciamo rumore di sottofondo, però secondo me devi lasciarlo nella bassa potenza perché il segnale rimane invariato, non hai nessun guadagno, hai diciamo perdita in qualità radio, che ti porti dietro questa cosa rilasciata dall'apparecchio stesso. Bene, vabbè, l'ho montato una fine per vedere se cambiarla. Ma aspetta. No, non è alternata, è la ventola della radio, adesso dovrebbe essere una cosa comunque. Va bene, no, era una prova, se te ne va anche questo. Vabbè, ha cambiato molto la radio. Allora, a me un peluzzino come è aumentato, ma poco, da 9,20 spaccato, lo superi di un pochettino, diciamo poco meno di 9,25. Ti mangia un pochettino la radio, ti dà un effetto evanescenza, diciamo tipo quando parli da lontano in una camera aperta, grande, è solo quello l'unica differenza che noto dal segnale normale, diciamo la modulazione del segnale senza aiuto, dai. Per il resto va benissimo. Con l'audio, come detto tu, probabilmente una ventola, quando accordi magari si sente un po' più accentuato, però fa bene. Magari forse il pilotaggio che gli stai dando forse un po' troppo, non lo so che cosa stai utilizzando, comunque va più che bene. Ok, facciamo riprendere a chi era in ritardo, Carlo. Beh, dimmi se sono saturo adesso e come sto arrivando, e dopo se Franco dai un'occhiata se è cambiato qualcosa adesso che sono agganciato. Cavolo, se è cambiato qualcosa, se diciamo hai superato Roberto. Sì, adesso sto uscendo con 40 watt. A me hai superato il 9,60, Carlo, io sto uscendo con 15 watt modulati, di picco magari saranno una cinquantina. Sì, solo che questa radio non la posso regolare, capito? L'altra invece abbassavo anche a 30, come volevo, insomma, aumentavo anche a 80, eccetera. Questo mi dà sino a 100, però così sono a 45, dai. Però adesso stacco perché tanto non c'è bisogno, già mi sento lo stesso. La buglia. Vabbè signori, io adesso interrompo, mi riposo un pochettino che sono da stamattina in giro, presto presto. Ok, saluto a tutti, iniziamo a fare il giro da più lontano, da Franco, poi Cettino, Gavino, Carlo e amici in ascolto eventuali e compagnia cantante. Se avete trattenervi, buon tutto, buon proseguimento, io vado a fare la nanna. Dai. Ci sentiamo domani Carlo e Coso, come abbiamo detto alle 10.30 su Terza Lessene, Carlo e Gavino. Ciao a tutti di nuovo, cuoretti da parte mia. Ciao Roberto, a domani mattina. Vabbè, aspettami, vabbè. Dimmi Tino, ma devi fare un giro? Domani. Vabbè, no, ci va bene, ci volete venire, se no l'appuntamento alle 10.30 a Terza Lessene, ci prendiamo il caffè e poi vediamo. No, vabbè, io allora penso di essere a San Teodoro. No, perché c'era un raduno di macchine d'epoca, pensavo che andavi anche tu. No, no, no. Mi sarebbe piaciuto andare a quel raduno, però no, ho impegni anche io, quindi ho dovuto rifiutare, vabbè. Adesso ci sono prossimamente il coso, ce ne sono diversi, adesso come bella stagione ce ne sono tanti, poi aspetto quello di maggio che c'è la mostra a scambio che fanno tutti gli anni a Torre Grande, di lì è la più bella della Sardegna, c'è di tutto di più, ci sono ricambi, auto, moto, ci sono dimostrazioni di impianti audio per auto, eccetera, eccetera, una cosa bella, ci vado tutti gli anni, soprattutto l'anno scorso è stata veramente bella perché erano 2 anni che non lo facevano per il Covid, chi è appassionato io ci vado tutte queste cose, non me le faccio perdere. Ok, di nuovo ciao a tutti, eventualmente Tino, Franco, dalle 10:30 ci troviamo a Piazza dei Segni, se volete venire ci prendiamo l'aperitivo o il caffè o qualunque cosa volete, dai. Ciao ciao di nuovo. Ciao ciao Roberto, saluti anche dall'ascoltore, dai. A dopo per le altre salute dagli amici. Ciao Giulio, ciao ciao di nuovo, chiudo. Ciao Giulio, un abbraccio. Ciao Roberto, ci sentiamo alle prossime, dai. Ciao anche a Giulio, avanti Davino. Ciao Roberto, sì, a domani, ciao, buonanotte, fatela buona. Buonasera Giulio, ben sentito, cordialità, avanti. Aspettate che saluto Roberto. Ciao Roberto, ci sentiamo al prossimo, vai Giulio. No, io ho voluto salutare Roberto che stava andando via perché lui ha salutato anche gli ascoltoni e io ero solo un ascoltone in questo momento e sto seguendo il vostro questo da un bel po', dai, e mi è piaciuto moltissimo stanotte. A dopo quando chiudete per i saluti finali anche da parte mia, dai, io non continuo comunque, vi ascolto. Riprendi il Gavino. Sì Giulio. Niente, ci fa piacere che dai, abbiamo cioè, fatto compagnia lungo questo QSO, in compagnia di Franco, di Carlo, di Tino, vabbè Roberto, e mia. Niente, rilancio a Carlo. Eccoci qua, ciao Giulio, buonasera, grazie che sei entrato, ci fa piacere, dai, ti sarai un po' annoiato, oggi abbiamo parlato un po' di tutto e di più, però è importante chiacchierare, la radio c'è per quello e quando ne abbiamo voglia siamo pronti sempre a fare 4 chiacchiere, non facciamo male a nessuno, credo, dai. Avanti Franco. Ehi Cappa, ciao Giulio, bella cosa anche a te. Vedi, questo è l'orario più bello Giulio, è l'orario più bello per modulare. Almeno ci rilassiamo un pochettino. Ok, avanti a te Giulio se vuoi rientrare. No, ti ringrazio Franco, ringrazio anche gli altri amici, però io rimango in ascolto, casomai quando chiudete, di volta in volta, quando andate via, entro per salutare l'amico che sta chiudendo, tutto lì. Comunque mi è piaciuto molto il QSO improntato sulla storia del lavoro, eccetera, sono concordo con tutto quello che avete detto. Riprendi pure Tino, saluti ancora anche a te, quasi mi hai salutato, ma io non ti ho risposto, avanti Tino. Non c'è problema, dai Giulio, anche io adesso me ne approfitto, ora che ormai che domani partenza molto molto presto, purtroppo ho un impegno calcistico di mio figlio, quindi devo alzarmi presto e andare a San Teodoro, come ho già detto, quindi ne approfitto a salutare il gruppo, rimango un attimino per i saluti, poi vado via, dai, rilancio il mic a Gavino, ritenetevi tutti salutati, ok? Ciao, buonanotte a tutti. Sì, Tino. Va bene, va bene. Quindi domani in trasferta a San Teodoro. Bei posti. Va bene, dai, io ti saluto. Tante cordialità, sempre un piacere, Tino, sentirti. Lo sai, non c'è bisogno di dare tante spiegazioni. Va bene. Buon tutto per domani, buonanotte. E fai da bravo, come sempre. Ciao Tino, buonanotte, riprendi Franco. Ciao Tino, buonanotte, buon tutto, dai. E buona giornata per domani. Divertiti. Alla prossima. Avanti Carlo. Ciao Tino, buonanotte. Buon divertimento per domani. Se hai da fare chilometri, giustamente vatti a riposare. Io domani già lavoro di sera, per cui non ho problemi. Poi sono solo soletto stanotte, non ci sono partite che mi interessano, per cui neanche il calcio stanotte, quindi sto facendo quattro chiacchiere alla radio con gli amici. Riprendi pure, Gavi. Un attimo, ciao Tino, ti un saluto finale anche per te. A dopo per gli altri amici, riprendi Gavino. Sì, positivo. Sì Giulio, avevamo quel discorso perché dai, sta diventando proprio tutto uno schifo. Carlo, adesso hai visto dal 2030 dobbiamo avere, cioè tutte le case devono essere almeno classe energetica E, cioè perché adesso cosa succede? Almeno per quanto ne posso capire io e per quanto posso essere malizioso, che per esempio uno come una persona, un operaio normale che lavora, per esempio un lavoratore in famiglia, anche in due, per esempio una coppia che sta pagando un mutuo di 100-120 mila euro, no? E gli imponi, diciamo, tu è un'Unione Europea e gli imponi che devono fare, devono sistemare caldaia, cappotto, riscaldamento, tutte queste cose qua. Questi adesso cosa fanno? Questi qua prendono e ti fanno, ti dicono va bene, tu non c'hai soldi, siccome lavorano con le banche, tu non c'hai soldi, allora ti ipotechiamo la casa, ti diamo il prestito e ti ipotechiamo la casa. Volete scommettere con me che molta gente perderà il tetto? Riprenditi Carlo. Guarda, io non credo, perché la comunità europea praticamente non può, cioè legifera per tutti i componenti della comunità europea, però dovrebbe tenere conto delle fasce climatiche, quindi che ne so, Germania, Francia, Irlanda, tutte diciamo queste nazioni che sono più a nord, è ovvio che hanno bisogno di più riscaldamento, di avere le case con quella classe energetica così, ma noi che viviamo in Sardegna, soprattutto dalle parti nostre, di freddo da noi, detto tra noi, in tutto l'inverno ne può fare una settimana 10 giorni, non di più, temperature che scendono sotto lo zero, sono 10 giorni, quindi tu non puoi costringere un'isola come la Sardegna, ma anche mezza Italia del sud, la Sicilia che è ancora più caldo di noi, di avere case con quella classe energetica così alta, capito? Chi fa queste cose non è a conoscenza della geografia e dell'ubicazione delle varie regioni e delle nazioni che fanno parte della comunità europea, quindi bisognerebbe che ci siano dei tecnici anche che spieghino bene queste cose quando l'Europa legifera in quel senso lì, perché tu non puoi considerare la Sardegna come uguale alla Francia e uguale alla Germania, capito? Perché non abbiamo lo stesso clima, quindi secondo me sarà tutto diciamo un bluff questa cosa, perché comunque l'Europa l'Europa non riconosce neanche l'autonomia e lo statuto speciale di certe regioni, come può essere la Sardegna, la Sicilia, eccetera. E invece queste cose devono essere rispettate. Quindi chi ci rappresenta in Europa, i nostri europei italiani, europarlamentari italiani, dovrebbero dire alla Commissione europea: guardate che noi non abbiamo il clima che c'è in Germania o in Francia, ma noi abbiamo solo nel nord Italia possiamo avere un clima simile, ma non al sud, per cui tu per il sud non mi puoi chiedere quella classe energetica così elevata. Il discorso è tutto quello, e purtroppo i politici molte volte non sono completi, e non riescono a fare questi ragionamenti. Secondo me però alla fine arriveranno a farlo quel ragionamento, e vedrai che non sarà più un obbligo, almeno per certe regioni d'Italia. A te, Gavrino. Guarda, io invece credo che è una cosa fatta con un secondo fine, è una cosa fatta con un secondo fine, perché ti ripeto, la penserò male, la penserò però questa gente serve un fondo di vendita, per questi grandi ricconi che vorrebbero acquistare case.